Il mostruoso. 19 dicembre. Il mostro fu da me, ora posso distinguerlo chiaramente. È grandissimo, arruffato, e nero, anzi ma in maniera spaventosa. Io mi sono difesa con la reliquia della Santa Croce e con l'acqua santa. Lui mi guardò fisso e uscì dalla finestra. Lo non ho mai visto nei serragli una cosa così mostruosa. È ora nella mia stanza. Verso mattina venne Gianni. Io, vuoi pregare per me? Lui, sì, io, ti alleggerisce un po'. Lui, sì, io, perché mi hai di nuovo preso per il collo. Lui, nel tormento. Io, non lo farai più. Lui, no. Io, perché non vai dai tuoi parenti? Lui, non c'è strada. Adesso è del tutto diverso quando prego. 20 dicembre. Il mostro rimase con me quasi tutta la notte. Io era sveglia e avevo la luce accesa, quando egli entrò con fracasso dalla finestra. Per fortuna rimase sempre lontano da me, ma quegli occhi. Io penso che spesso non potrei farcela in notti come questa. Gianni venne due volte, sembra che egli avverta il mostro, perché una volta si voltò verso di lui, e non mi ha dato nessuna risposta. 21 dicembre. Apparsa l'ombra nella mia stanza. Gianni qui a lungo. Io, puoi vedere l'infelice che ieri era qui con te? Lui, sì. Io, è ancora più infelice di te? Lui, sì. Io, sai chi è? Lui, no. Io, in che modo posso aiutarti meglio? Lui, sacramenti. Io. Ti accorgi quando ho ricevuto i santi sacramenti? Lui, sì. Io, come? Lui, attiri. Allora incominciò il fracasso e Gianni disparve. Io cercai di pregare anche con questo, allora venne più vicino, nella mia paura ho di nuovo lasciato lì subito. All'aspetto di una grande scimmia. 23 dicembre. La cosa più tremenda subita finora. Il mostro venne con molto rumore e si accovacciò in un angolo, fissandomi sempre con gli occhi. Poiché ieri sono stata tanto vile e cessai di pregare, io raccolsi il mio poco coraggio e incominciai. Avevo appena dette poche parole, che il mostro si gettò con violenza su di me. Non ci fu dolore che provassi, ma qualche cosa di così spaventoso che io perdetti conoscenza. Che cosa fu non so, in ogni caso mi ripresi subito, trovai la luce ancora accesa ma non c'era più nulla. Io ero sfinita per questo, e potei riposare un poco. Poi venne Gianni, ma solo per poco. Visti il cavaliere e gli 11. L'ombra mi seguì per le scale e mentre si stava facendo l'albero di Natale venne anche lì. E quasi un po' troppo, perché è molto difficile a nascondere tutte le impressioni e vivere come una persona normale in mezzo agli spiriti. 24 dicembre. Gianni a lungo con me? Guarda fuori meglio. Io, stai più bene? Lui, sì. Io, allora sei presto liberato? Lui, 18x7'. Io, dimmi almeno se ci sono ancora altre povere anime qui con me che non posso ancora vedere? Lui, sì. Io, perché non le posso vedere? Lui, sono esse che non possono. Disparve. L'ombra venne di nuovo dopo cena. E gli 11 scesero con me per la messa di mezzanotte. Dopo questa messa io ero ancora in piedi e venne quell'infelice. Poiché ero in piedi vidi che era quasi il doppio della mia statura. Provai tanto spavento che volevo correre fuori sul corridoio. Ma lui si mise davanti a me. Io, non puoi farmi niente, è la santa notte. Egli prese ad urlare e andare in su e in giù. Io mi inginocchiai davanti al mio presepio, senza pregare e senza pensare, ma solo piena di spavento di quello che mi potrebbe ancora accadere. Sempre quel gemere insopportabile vicino a me. Finalmente riuscii a dire: «Se non puoi parlare, dammi un segno, che ti posso aiutare». Allora si gettò a terra e prese a urlare come un animale. Io lo aspersi di acqua santa e l'ho accarezzato un po' perché era Natale, ma fu una sensazione terribile. Ho detto le preghiere a voce alta ed egli non si mosse e non mugolò. Non si può descrivere il suo aspetto, non ha vestiti, soltanto la pelle e quegli occhi. Eppure mi sento confortata perché se fosse un cattivo spirito non lo potrei aiutare. Gianni mi svegliò per la messa del mattino, sentii una chiamata, mi svegliai e dissi: «Chi è?» Risposta: «Gerardo». Nota. Egli aveva due nomi, Gerardo, Giovanni. Io mi accorgo e mi convinco sempre di più che le povere anime mi hanno sempre svegliato. L'ombra venne di nuovo in sala da pranzo, e non riuscii quasi ad evitare la sorpresa, mi chiesero che cosa avevo da non riuscire più a mangiare. Io ho tenuto duro e continuato a nascondere, tanto non mi capirebbero.